Quindi in questo caso hai giocato su alcuni stereotipi che sono funzionali, quindi in questo senso riescono in qualche modo a trasmettere meglio anche il messaggio. Sì, e secondo me il cliché e lo stereotipo in questo lavoro sono degli strumenti, quindi il cliché o lo stereotipo non è un rischio in cui si cade, quindi non è che si diventa vittima del cliché in cui sei incappato, al contrario, il cliché è una cosa che qui spero che sia stata usata in maniera consapevole. Se questo è vero, quello che dovrebbe succedere è che pubblico, guardando un personaggio stereotipato, più facilmente lo associa a qualche cosa che conosce e quindi diciamo c'è tutto un dietro le quinte, un retroscena, una storia pregressa che è come data per scontata. Cioè, so quando vedo quello lì, vestito così, che parla così, so da dove viene, so che luoghi frequenta, so che cosa, che musica ascolta, so come si comporta, eccetera. Bon, e quindi mi posso concentrare di più su quello che adesso farà. Spero che dia anche la sensazione di vedere sul palcoscenico qualcosa che uno conosce, che riconosce. Lo spettacolo funge però anche da specchio, appunto, come dicevamo prima, della società in cui viviamo, quindi nel 2018 con la realtà liquida, i social media, dove in realtà queste subculture, se prima rimanevano molto separate e nette, adesso invece si abbassano a ogni tipo di muro e riescono in questo senso a comunicare. Beh, sì, viene da dire che insomma, fino a pochi anni fa, ad esempio, anche soltanto ascoltare un certo tipo di musica voleva dire aderire a un certo tipo di, fra virgolette, movimento, frequentare alcune persone, frequentare alcuni luoghi, ascoltare alcune cose, comportarsi in un certo modo, abbastanza a compartimenti stagni, anche quasi per, primo, per riconoscere più facilmente i tuoi simili e poi per dare delle informazioni di sé in automatico appena uno ti vede. C'è un senso di, secondo me, dentro tutto questo anche forte di appartenenza a qualche cosa. Adesso questa cosa si è persa, forse anche un po' ideologica, va bene così, insomma, è più fluido, forse più naturale, c'è meno senso di appartenenza. Secondo me, in passato questa cosa anche della musica e dell'aggregazione sociale che nasceva attorno alla musica era anche un aiuto, c'era qualcosa di molto umano che aiutava anche, per esempio, un adolescente a trovare un'identità. Questa fluidità di adesso permette anche, che ne so, banalmente di non doversi vergognare se ascolti due generi di musicali completamente diversi, cosa che magari no, prima, insomma, se ascolti questo, non ascolti quello. Forse è un periodo questo in cui il concetto di identità è un po' più melmoso. Cioè, non era male avere le idee chiare su no, qual è la tua identità e anche che cosa hai scelto, dove, cioè, chi vuoi essere. Non lo so, insomma, mi sembra che questa generazione magari abbiano un forte desiderio di identità, è una continua ricerca, magari anche meno spazi per trovarla, meno luoghi di aggregazione, così. E qui di nuovo il parcheggio, perché insomma il parcheggio è un posto che poi alla fine un'identità vera non ce l'ha, è un posto in cui È un non luogo. è un non luogo in cui ci sta lui, ci sta quello, ci sta quell'altro. Non sono dei fiori all'occhiello della società, però c'è uno spettro molto ampio, il parcheggio ci puoi mettere qualunque tipo di persona che sta un po' ai margini della società. È sempre stato rilevante nei tuoi spettacoli il ruolo dell'attore tanto quanto quello del pubblico. E in questo spettacolo che ruolo gioca lo spettatore? Beh, lo spettatore è la persona senza il quale non avrebbe senso andare in scena, per cui lo spettatore è colui per il quale si fa il lavoro, cioè tu fai un lavoro perché qualcuno lo veda, perché qualcuno lo ascolti, perché qualcuno ne fruisca, anche perché qualcuno lo commenti e ti dica, ti dia un suo parere e ti faccia rendere conto anche se sei andato in una direzione interessante oppure no, se l'hai annoiato e perché. È lo strumento grazie al quale capisci se ti stai facendo delle. Si può dire una parolaccia? Si può? Ma sì, si può Delle dire. seghe mentali Mentali, sì. e basta, no? Cioè ti stai occupando di cose che interessano solo a te o se invece parli di argomenti che sono attuali e che interessano anche, insomma, quelli che non sono te. Perché se non fosse così sarebbe la fine. Lo spettatore nei miei spettacoli, nei nostri spettacoli, ha una funzione che spero sia attiva. Cioè non soltanto di guardare uno spettacolo come se ci fosse un muro, no, uno schermo e quindi guardo, nel frattempo mi faccio i fatti miei, ma di spettacoli in cui in questo spettacolo la protagonista si rivolge direttamente al pubblico parecchie volte. E quindi questo vuol dire che non sono solo io che guardo gli attori, sono a volte anche gli attori che guardano me, guardano come io lo guardo. E questo assomiglia di più a un dialogo, insomma, che è quello che stiamo facendo adesso. Cioè, mi fai delle domande, tu delle risposte, poi ci sorridiamo e siamo complici, si crea una complicità e insieme nasce un discorso. Poi, ovviamente è un'utopia quella che sto dicendo, però l'obiettivo sarebbe questo, insomma. Perfetto, siamo arrivati praticamente alla conclusione. Ti faccio l'ultima domanda, che sarebbe: a quale domanda non ti ho fatto vorresti rispondere? Hai fatto una bella domanda, un po' marzulliana, mi piace. Un po' marzulliana, sì. Diciamo così, allora, la domanda più pericolosa, anche la domanda di cui ho più paura, è che in realtà nessuno mi ha fatto. Se c'è qualcosa che mi riguarda, cioè se questo spettacolo è così perché c'è qualcosa che mi riguarda. E la verità è che in questo spettacolo c'è moltissimo che mi riguarda. E non parlo di, appunto, morali o riflessioni sulla vita, piuttosto che biografie, eccetera. Ma parlo di le persone, cioè, quando parlavo prima di queste quattro figure iconiche che sono sul palcoscenico, appartengono tutte a persone che fanno parte della mia vita e che, diciamo, le persone più importanti della mia vita sono tutte racchiuse da queste quattro figure. Diciamo che qualunque personaggio della mia favola, che sia un parente o che sia un amico, è uno di loro quattro. E lo scenario che vediamo, anche a livello estetico, è qualcosa che mi appartiene molto, per vari motivi che adesso non sto a dire, ma che fanno parte della mia fiaba. E le musiche, che sono un elemento molto importante dello spettacolo, sono musiche molto nuove, però sono musiche di cui o conosco la persona che le ha fatte, quindi le ho scelte, parlo di Miramare, Fadamat, oppure De Collo, Irol. Ho la fortuna di avere molti amici musicisti, di essere cresciuto in un ambiente molto musicale, molto ricco, e tutto quello che si sente sul palco sono cose che o sono state fatte da persone che conosco, o che mi hanno fatto ascoltare persone che conosco, o che mi ricordano momenti della mia vita che io ho passato con qualcuna delle figure che sono sul palco. Perfetto, grazie mille Teodoro. Grazie a te Elisa. E così come in un film d'animazione di ultima generazione, oppure come in una sorta di Mago di Oz contemporaneo, una bambina di 9 anni, protagonista del brillante testo di Tiago Rodriguez, vaga per le strade di Lisbona in cerca del primo ministro del Portogallo affinché eserciti potere per consentirle di soddisfare un suo capriccio. E poi, una volta trovato, lo minaccia di morte. E questo è Gioia e Dolori nella vita delle giraffe. Lo potete andare a vedere, ve lo consiglio vivamente, all'Arena del Sole fino all'8 febbraio, che vi ricordo è in via Indipendenza 44, e potete ovviamente consultare il sito di Bologna Emilia Romagna Teatro.com e ovviamente a mettere il mi piace a Chi fa da sé fa per te, che ha sempre la pagina Facebook, visto che è un nuovo format, vi invito a supportarlo in caso in cui vi piacesse, se no va bene lo stesso, insomma ne farò una ragione. E ovviamente noi ci risentiamo venerdì prossimo, sempre dalle 10.30 alle 11.30, e adesso lasciamo spazio invece al jazz con Jazz Live, quindi saluto William Piana, Alfredo Pasquali e la grande Valeria. Forza e coraggio, mi raccomando, visto che sei così, ti hanno messa in mezzo, reggi il colpo, perché insomma sei grande e forte. Noi ovviamente ci ascoltiamo l'ultimo brano con Big Boss Man, Complicated Lady. Buona giornata. Salsa and the boogaloo too. Well, she's a complicated lady and she loves to get high. When you see her move, she's gonna catch your eye. There's a voice inside my head keeps her running around. Gotta make her mind, gonna be mine. You know she's gotta be my baby. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, segui il sito www.radiocittafujiko.it. Città Fujiko, la prima radio in Italia, tutta in software libero.